Cibaba, cibaba, questa è l'ora di far la nanna. Cibaba, cibaba, cibaba, la mia voce canterà. Cibaba, cibaba, cibaba, questa semplice nina nanna. Cibaba, cibaba, cibaba, i tuoi sogni cullerà. Mille stelle che nel ciel spuntano piano piano, buonanotte sembran sussurrare. Le tue bambole oramai chiudono gli occhi blu. Dormi amore, chiudili anche tu. Cibaba, cibaba, cibaba, com'è dolce la ninna nanna. Cibaba, cibaba, cibaba, sogna la felicità.